Allora, riprendo alcuni punti che già ha introdotto Bruno, vedendoli sotto una prospettiva lievemente diversa. Proprio per cercare, sulla sollecitazione di chi ha introdotto il discorso, di collegare questa vicenda dell'IWW a questioni che ci toccano da vicino. Una prima questione chiave è il fatto che, Bruno l'ha già accennato, ma possiamo riprenderlo e approfondirlo, l'IWW sta dentro il primo processo di globalizzazione. La parola globalizzazione è una parola che compare soltanto, come sapete, dal punto di vista così scientifico, accademico, eccetera, negli anni 70 del secolo scorso, del Novecento. In realtà si comincia a parlare di global già negli anni 40-50, sempre negli Stati Uniti. E tuttavia questa fase, la fase di fine 800, primo 900, è quella che oggi si identifica come una prima globalizzazione. Qualche esempio. Se noi fossimo stati negli uffici dell'Ansaldo a San Pier d'Arena nel febbraio del 1898 e avessimo avuto la fortuna di avere accesso alle più segrete cose, avremmo trovato nascosta in una delle agende di Ferdinando Maria Perrone, che era il manager generale dell'Ansaldo stessa, un incontro con due emissari statunitensi, siamo nel febbraio del 98, che vanno all'Ansaldo per provare a comprare una nave. Vogliono comprare una nave da guerra che in realtà è stata promessa dall'Ansaldo alla Spagna. C'è tutta una discussione, alla fine la nave non andrà a nessuno, sta per scoppiare la guerra ispano-americana, sarà di lì a poco scoppierà la guerra, l'Italia assumerà una posizione di neutralità e quindi la nave non va a nessuno. Ma questo cosa ci dice questa vicenda? Questo fatto per cui a San Pier d'Arena circolano emissari del Dipartimento di Stato statunitense. E il fatto che tre anni dopo uno dei grandi padri della finanza statunitense, Frank Arthur Vanderbilt, decide di fare un viaggio in Italia. Decide di fare un viaggio in Italia per che cosa? Perché si sta mettendo in moto il grande business delle rimesse degli emigranti. Ora, tutto questo noi potremmo citarne innumerevoli casi dimenticati, no? Li abbiamo ricostruiti, questa vicenda qua dell'Ansaldo l'ho trovata in un'agenda di Perrone, numerose altre, quindi neanche nell'archivio, nell'agenda, numerose altre le troviamo più o meno in questa maniera. Cosa ci dice tutto questo? Ci dice che è in corso uno straordinario processo di interdipendenza economica, cioè di improvvisa, da un lato grazie alla rivoluzione dei trasporti, dall'altro grazie alla rivoluzione della comunicazione, un improvviso avvicinamento di mondi e sconfinamento tra mondi che fino a quel momento erano almeno relativamente separati, o comunque una intensificazione di questi rapporti. Allora, questo è il primo aspetto che ci tocca e ci riguarda. La globalizzazione è qualcosa che non è in assoluto nuova, la globalizzazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo da una ventina d'anni, questo intensificarsi, ripeto, dell'interdipendenza economica, ma qualcosa che ci rimanda proprio alla vicenda dell'IWW. L'IWW vive nella prima fase di globalizzazione, che comprende naturalmente anche, questo ne parlava Bruno, enorme spostamento di braccio, di forza lavoro. E qui interviene un secondo elemento chiave, appunto le migrazioni e la dimensione transnazionale. Ho detto febbraio 1898, bene, nello stesso febbraio 1898 in cui ci sono questi che si vorrebbero comprare la nave e poi si comprano altre cose, noi potremmo andare a Vado e scoprire che la Westinghouse nello stesso periodo mette in piedi una piccola filiale per il montaggio e la vendita delle famose registratori di cassa National Cash Register. Infatti, tant'è vero che soltanto qui intorno, soprattutto nei bar più vecchi, eccetera, troviamo delle vecchie National Cash Register. Ci sono anche le nuove, ma talvolta sono anche le vecchie. Beh, venivano montate a Vado. Allora, dicevo, il primo aspetto è questo fenomeno di prima globalizzazione. Dentro a questo ci sono le migrazioni di massa e dentro a questo c'è una condizione che possiamo definire francamente transnazionale. Cosa vuol dire transnazionale? Vuol dire che la gente va e viene in continuazione. Vuol dire che improvvisamente costa meno prendere una nave e andare nelle Americhe che non prendere un treno come si faceva tradizionalmente per andare in Europa. Vuol dire che nello stesso febbraio 1898 Nino Peloso, che è un lavoratore, un contadino di Avigliano che ha perso la terra, prende e parte e va verso il Connecticut, va a Waterbury, Connecticut. Ci va nel 98, lavora 4 anni in una fabbrica dell'ottone, mette da parte qualcosa, si licenzia, torna ad Avigliano e comincia un avanti e indietro che dura fino al 1915-16, quando scoppia la guerra e non ci si può muovere più. E allora molti di questi finiscono per scegliere di stare nelle Americhe o negli Stati Uniti. Ma nel frattempo hanno praticato e imparato a praticare questa condizione della transnazionalità, cioè dell'andare avanti e indietro, del sentirsi parte. Ma noi dobbiamo stare molto attenti, noi ne parliamo oggi come una, insomma, un po' una roba per cui prendiamo l'aereo o facciamo questo, ma ecco, lì erano naturalmente i triboli e il dramma dell'andare avanti e indietro. Andare avanti e indietro voleva dire mollare una famiglia, voleva dire distruggere famiglie, voleva dire finire. L'altro giorno parlavamo con una signora che è la Elena Giannini Belotti, quella di Dalla parte delle bambine, che sta scrivendo uno straordinario romanzo che è dedicato a una vicenda familiare di un uomo che si muove appunto in questa direzione. A un certo punto resta talmente distrutto dall'esperienza migratoria che finirà in manicomio. Riesce poi a uscirne, torna in Italia, si ricompone, eccetera. Questo per dire i triboli di questa vicenda. Ma dentro questa vicenda così tribolata c'è anche appunto questa pratica della transnazionalità. L'imparare due lingue o non imparare nessuna delle due, o imparare qualcosa che comunque ti consente di vivere contemporaneamente in due mondi diversi. E il gettare, e qui interviene la realtà, il gettare le basi per riconoscersi con persone profondamente diverse. Qui ha ragione Bruno, ci sono nel Colorado c'erano 27 lingue diverse, a Lawrence c'erano 45 gruppi dialettali e linguistici diversi. E come diceva Bruno, qui davvero, e qui si passa al punto successivo, l'IWW sperimenta delle straordinarie forme di organizzazione. Ci ritornerò tra un attimo. Ripeto dunque, da tenere fermo il primo punto, che è il fatto che questa storia della globalizzazione l'abbiamo già vissuta, il che non vuol dire che è uguale. La viviamo in aree diverse e con esperienze diverse, non dimentichiamo, con un elemento chiaro, che allora la si viveva in un'ottica di progresso e di crescita economica di una parte del mondo. Oggi tutto questo è molto meno chiaro, è infinitamente meno chiaro. E anche l'impatto che possono avere le migrazioni sui paesi di partenza è molto diverso proprio per questa condizione, no? Quindi questa è la differenza fondamentale. Questi invece partivano travagli, disastri, ma con la prospettiva di migliorare la condizione. Dentro questa logica della transnazionalità, l'espressione transnazionale è un'espressione che è stata inventata dagli antropologi negli anni 80 e 90 del Novecento. Questi non sapevano di essere transnazionali, questi poveracci era già tanto se riuscivano come Nino Peloso ad andare avanti e indietro, insomma. E però avevano un sistema di conoscenze che è assolutamente straordinario. Cioè quello che queste generazioni avevano in termini di imparare a muoversi. Io ho detto transnazionale, potrei aggiungere subito cosmopolita. Cosmopolita, si tratta di persone che a noi appaiono come terribilmente provinciali. Voi leggete Vita della Mazzucco, che ha vinto lo Strega meritatamente 2 anni fa, no? E c'è questa storia appunto di migrazione. Ma se noi pensiamo al sapere che questi elaborano, comunicano, trasmettono, è assolutamente straordinario. Sapete che oggi va molto di moda questa espressione che a me piace molto, che è capitale sociale, no? Capitale sociale, che poi vuol dire le relazioni, insomma, sostanzialmente, no? Relazioni, talvolta clientelari, cioè, uno si è inventato il capitale sociale. Il capitale sociale individuale che avevano questi, robe da fare, altro che il grande sociologo francese mancato, tristemente poco tempo fa, Bourdieu, no? Che parlava appunto del capitale individuale. questi capitale individuale e familiare ne avevano a bizzeffe. Imparano veramente a elaborare, muoversi. Ma voi pensate, abbiamo fatto ricerca ad esempio appunto su questi che fanno in Connecticut, e ci sono queste ragazzine che dicono: io sono stato un pacchetto postale, capisci? Io sono partito con un pacchetto postale, però tutte le stazioni, lei è partita da Ponte Landolfo, Benevento, e tra Ponte Landolfo e Waterbury, Connecticut, che c'è di mezzo non solo il mare, molto di più, non ha mancato una stazione. Cioè, ogni stazione c'era qualcuno che la famiglia allargata, la famiglia ridefinita, no? Per cui si è scoperto ad esempio che in Rhode Island si chiamano zii persone che non sono zii, ma che fungono da zii, da compagno, da persone che ti aiutano. E quello che emerge dalla storia è questa, che si chiamava Rosa, questa giovane signora che abbiamo intervistato, ormai era più una giovane signora, negli anni 80, è il fatto che non era mai sola. Non è stata mai sola. Ecco, allora la transnazionalità come esperienza di vita e al tempo stesso come elaborazione mentale. Prima ho detto cosmopolitismo, noi studiamo, o abbiamo studiato, noi leggiamo, no, questi pensatori che ci dicono che siamo multiculturali, che c'è il cosmopolitismo, eccetera, eccetera, sono tutte cose importantissime. C'è un grande pensatore statunitense che conia questa espressione di America transnazionale, no? Ecco, nel senso di un'America che mette insieme diverse nazionalità e le fa convivere. E è rispettosa dello specifico e al tempo stesso si immagina qualcosa che vada al di là, in senso cosmopolita. Si chiama Randolph Bird, muore durante la prima guerra mondiale, inventa tra l'altro una frase chiave per capire le guerre, dice: la guerra è la salute degli stati. Ecco, questo dice Randolph Bird nel 1918, cioè la guerra fa bene agli stati e basta. Bene, questi migranti il cosmopolitismo lo praticano senza aver letto Randolph Bird quotidianamente, e l'IWW interviene in questo. Ecco, direi che la genialità dell'IWW, pur in mezzo a molte ingenuità, ne abbiamo parlato un po' anche, ne accennava Bruno, ne abbiamo parlato anche su Alias, no? Questo fatto per cui questi sono 200 delegati che rappresentano forse 60.000 persone, dice: siamo i lavoratori industriali del mondo, ma figurati. Però c'era il fatto che dietro, quindi era una sparata, ma dietro c'era un'esperienza che si era accumulata nel tempo, e loro hanno la straordinaria capacità di, verrebbe da dire con Bob Dylan, no? Ecco, non c'è bisogno del meteorologo per sapere dove soffia il vento, insomma, quando cambia il vento. A questo proposito, dunque, questo è il 1905, pensate che se uno va a Panama negli anni della costruzione del canale, che sono gli stessi anni, trova esattamente questa condizione: una classe operaia con 20-25 nazionalità diverse. Ci sono gli italiani, ci sono i neri, ci sono i conflitti tra gli italiani e gli afroamericani, c'è la tendenza del, proprio come diceva Bruno, c'è la tendenza, questo è gestito dal Dipartimento di Stato, il canale di Panama, e il Dipartimento di Stato cerca a bella posta di mettere neri contro altri gruppi. Ma come sapete, all'epoca gli italiani devono prima di tutto far vedere di non essere neri. Tra le tante cose che devono fare quando vanno lì, c'è quella di fare in modo di far capire che loro non sono dei neri. Io ho intervistato una signora che era stata un tortonese, che era stata a New York dal 1906-1911, e che mi dice: sa, c'erano anche dei neri, anzi c'erano dei negri vicino a noi, ma erano brave persone. Ma erano brave persone. E lei dice: ma noi ci trattavano bene, ai meridionali li trattavano male, dicevano ghini ghini. E mi ricordo che io all'epoca, questo è il 75, era la mia vicina di casa, 75, quando ho intervistato questi non sapevo cosa volesse dire ghini ghini, perché c'era ghini ghini gun, e gun vuol dire cretino, vuol dire no, fessapiotto, mondone, diremmo noi, insomma. Ma i ghini ghini, e il ghini ghini l'ho scoperto dopo parlando con David Rödiger, che mi diceva: guarda che ghini ghini è l'espressione che veniva usata nei confronti degli schiavi, perché vuol dire Guinea. Quindi allora ai nostri meridionali veniva usata la stessa espressione che veniva usata contro i neri. Allora, questo per darvi l'idea, no, di cosa vuol dire dunque questo ammasso di forza lavoro, questo sistema transnazionale. e lì dentro interviene Raida Buddhaplo, interviene, Bruno accennava a questa cosa degli scioperi, sono romanticizzati questi scioperi hanno anche degli aspetti non immediatamente così di democrazia, non immediatamente così piacevoli, ci sono delle divisioni, noi non abbiamo ancora ben studiato, ad esempio, lo sciopero di Patterson, no? Dove sono questi settaioli, c'è una parte di lavoratori qualificati, ci sono anche delle divisioni, succede un po' di tutto. Ma la genialità della IWW sta nel trasformare lo sciopero in un evento. Lo sciopero diventa un evento, ma non perché questi volessero fare i pagliacci. Assolutamente, avevano capito una cosa. Avevano capito che se non si comunicava giustamente, nella maniera corretta, se non ci si faceva sentire, qui viene in mente ad esempio i disastri dei nostri scioperi dei servizi, dove spesso ci capita di non ricevere un volantino che ci spiega il fatto che noi siamo o potremmo essere vicini ai ferrovieri. Vi ricordate quello straordinario sciopero dei nostri autisti dell'autobus un paio d'anni fa, che fecero questa bellissima idea di appiccicare sugli autobus? Siamo nella stessa barca. Scioperiamo perché vogliamo degli autobus sicuri. Caso abbastanza raro. Bene, su questo gli IWW erano assolutamente straordinari. Gli scioperi diventano degli eventi. Quindi allora, sfruttando il fatto che a Lawrence, Massachusetts, 1912, e anche qui naturalmente ci si avvicina a noi, perché se voi prendete la rivista, il giornale Lotta Operaia, che è il giornale della Camera del Lavoro anarcosindacalista di Sesto Ponente, negli anni 10, che è un giornale che dice solo esclusivamente robe tipo messo finalmente vittoria dei tranvieri di Bolzaneto, sono riusciti a ottenere il vetro, perché se non c'avevano il vetro davanti, poveracci, quindi assideravano l'inverno, cioè, dopo una lotta di 2 settimane strappato il vetro, è tutto così, Bolzaneto, San Pier d'Arena, eccetera. Bene, improvvisamente all'inizio del 1912 prima pagina intera Lawrence, Massachusetts, purtroppo senza una cartina, senza niente che potesse un po' aiutare, ecco. Ma perché? Ma perché c'era uno, Angelo Faggi, che era dalla Camera del Lavoro di Sesto e Ponente, che era andato a Lawrence, Massachusetts, la prima cosa che fa è dice ma scriviamo a questi e diciamo che ci mandino dei soldi. Non solo, a Lawrence, Massachusetts c'è qualcuno che è stato a Parma nel 1908. E cosa hanno fatto gli anarcosindacalisti a Parma nel 1908? Hanno preso i bambini, e ce ne sono ancora qui a Genova ad esempio, o ci sono delle persone che si ricordano, li hanno messi sul treno e li hanno portati nel resto d'Italia, presso famiglie, con due obiettivi: uno, salvare i bambini; due, soprattutto, fare dello sciopero un evento che raccogliesse l'appoggio dell'opinione pubblica. E lo stesso fanno Lawrence. Allora c'è questa foto bellissima, che forse ci sarà anche qui, con questi, c'era, no? Con questi bambini che dicono we will never forget, e partono e vanno a New York, a Providence, Rhode Island, eccetera, presso le famiglie. E lì c'è un'azione molto intelligente della IWW, che lavora con l'intelligenza di New York, con quelli del Greenwich Village, e che dice, beh, voi, primo, ci date dei soldi, secondo, premete perché questa cosa si risolva a nostro favore. Quindi allora, lo sciopero come evento. Non dimentichiamoci che all'epoca Hollywood è all'inizio, e a Hollywood si producono film pieni di bandiere rosse. C'è un film del 1913, in cui sostanzialmente, che è prodotto ufficialmente a Hollywood, dove sostanzialmente non ci sono altro che bandiere rosse, no? Ecco. Questo per dire come? Cosa? Sì, vabbè, insomma, certo, no. Giusto. Si capisce che sono rosse quando Charlie Chaplin si trova davanti allo sciopero con le bandiere, si capisce con la che sono rosse perché li menano, quindi. Sì, è vero. E tra l'altro è interessante perché lì basta tirare sulla bandierina, no? Allora dicevo, terzo elemento, perciò il primo è la globalizzazione, il secondo è la transnazionalità, il terzo è il senso dello sciopero come evento e quindi della dinamica della comunicazione. Le IWW in questo sono assolutamente straordinari. Ma perché? Perché capiscono che c'è un passaggio, che c'è il passaggio tra il carattere vittoriano, tra la mentalità ottocentesca e la mentalità novecentesca, che è una mentalità che gioca attraverso la relazione, attraverso la mediatizzazione, attraverso la costruzione di maschere, e ci si gettano dentro. Poi, come diceva giustamente Bruno, finiscono per prendere un sacco di botte, ma prima di prendere un sacco di botte e di sparire dalla scena sostanzialmente, fanno un'altra cosa molto importante, e cioè, questo è il quarto punto, ed è, contribuiscono a ridefinire la nozione di democrazia. Anche su questo la lezione della IWW è molto importante. Cioè, non c'è parola più usata oggi o della quale più si discute in campo scientifico, politologia, questo e quell'altro, che democrazia. Ecco, non c'è parola più usata, più studiata, eccetera. Se voi guardate su Google, democrazia è decisamente la parola. Ma se notate anche, ci stiamo arrotando, o gli studiosi, insomma io non tanto, ma insomma, attorno a cosa sarà ancora domenica Pasquino, però se si cambia il sistema elettorale forse finalmente magari riusciamo a realizzare la democrazia. Ma se no, ecco, se facciamo il presidente più forte o meno forte e tutte queste cose qua, che non sono cose da sottovalutare, e gli IWW invece le sottovalutano. E qui c'è uno dei loro errori. Cioè, non si occupano assolutamente dello Stato, della dimensione istituzionale, o comunque tendono a sottovalutarlo, in un momento in cui invece sta modificandosi e gli si lancerà contro, come appunto gli si abbatterà contro, no? Come una scure. Contemporaneamente però elaborano una nozione di democrazia che in parte Bruno ha già illustrato, innanzitutto al loro interno, cioè l'idea che se possibile e quanto è possibile la gerarchia va evitata. Ecco, diciamo che questo è l'elemento di base, e vanno evitate se possibile tutte le costruzioni, tutte le elaborazioni assolutamente inutili che vadano al di là di un'idea per cui si deve produrre l'autogoverno di chi sta sul posto di produzione. Allora io credo che questa idea di democrazia, che può sembrare molto semplicistica, in parte anche lo è, ma l'idea cioè della democrazia all'interno dell'organizzazione e della democrazia sul lavoro, vissuta se occorre, diciamolo, un po' come la faccenda degli scioperi, con molta ironia, perché un'altra cosa caratteristica della IWW è il fatto che erano ironici. Una che un po' sfiora la IWW, anche se insomma ci partecipa un po', che è l'anarchica Emma Goldman, come sapete pronuncia la famosa frase, dice: se non mi lasciate ballare non voglio far parte della vostra rivoluzione. Ma tenetela, insomma, ecco, no? Se dobbiamo essere tristi, seri, menacero e questo e quell'altro. Allora, nella visione della democrazia della IWW c'è davvero l'idea della possibilità di rapporti diversi, orizzontali, prima di tutto nelle relazioni di lavoro. E sarebbe interessante vedere se e in che misura, quando si comincia, il management comincia a riflettere su questo attraverso la cosiddetta teoria delle relazioni umane e cose del genere, pesantemente manipolatorie, non provi a tenere in conto anche di queste cose. La IWW è molto dentro la relazione informale, e su quello pensa di poter costruire il futuro della società. Ripeto, in maniera relativamente un po' semplicistica, saltando molte cose, ma andando al cuore delle relazioni sociali, dei rapporti di lavoro. Ho detto appunto, la visione controversa, confusa, forse semplicistica, ma assolutamente vitale, come ideale del quale, come diceva 30 anni fa, uno dei principali storici che si sono occupati dell'IWW, si chiamava William Preston, pare che da questa idea non si possa prescindere. Per evitare un futuro, lui diceva, William Preston, e cito, nel quale qualche cricca politica controllerà tutti i posti di lavoro e renderà tutta questa palla fangosa una città fabbrica globale. Grazie, abbiamo bisogno della IWW. Il mio intervento sarà incentrato principalmente su diciamo gli italiani e l'IWW o l'IWW, in particolare su Il Proletario, che è stato la testata che dalla fine dell'Ottocento fino all'immediato secondo dopoguerra, è stata uno dei fogli principali del movimento sindacale italiano. Il proletario nasce nel 1896, in seguito alla decisione di una sezione socialista a Pittsburgh, che decideva di creare una testata per diffondere l'ideale socialista all'interno della comunità italiana. A partire dal 1896 fino al 1946 il proletario in seguito e la Federazione Socialista Italiana, che si costituirà all'inizio del Novecento, sarà uno degli organi di trasmissione dell'ideale socialisti allargati, socialisti di fine Ottocento, e poi prenderà una deriva sindacalista, per usare termini italiani, e appunto ci sarà un continuo scambio di persone e articoli inviati da entrambi i lati dell'oceano, quindi uno scambio continuo Italia-America. Tra le varie persone che si sono susseguite nella direzione o comunque tra i redattori del proletario vediamo tutta una serie di personaggi famosi. Partiamo dal 1902, Giacinto Menotti Serrati, socialista imperiese, sanremese, che va negli Stati Uniti proprio chiamato a dirigere il proletario. E Giacinto Menotti Serrati inizierà a rilanciare il proletario, farà anche un tentativo intorno al 1904 di fare il proletario da settimanale a quotidiano, tentativo che fallirà per motivi economici, non reggerà la cosa, ma che arriverà comunque in quegli anni ad avere circa 4.000 abbonati. La presenza dell'italiano all'interno dell'IWW che è sempre stata una cosa non organica, almeno fino agli anni 20. Appunto, la Federazione Socialista Italiana, che si costituisce nel 1902, almeno fino al 1921 costituirà il vero punto di riferimento della maggior parte degli organizzatori sindacali italiani. L'FSI avrà una prima scissione, un primo chiarimento nel 1911, quando praticamente si spezza in due, da un lato la corrente socialista, dall'altro la corrente sindacalista, che continuerà a mantenere la testata. Parlava prima Nando Fascia degli scioperi di Lawrence del 12. Negli scioperi di Lawrence del 12, a fianco all'IVV ci sarà la Federazione Socialista Italiana a guidare la componente italiana, appunto portando questa tradizione italiana che c'era stata a Parma, ma c'era stata prima negli scioperi di Piombino e dell'Elba, di far emigrare i bambini che da un lato è giusto toglierli come peso dalle famiglie in sciopero, dall'altro che però sono anche un veicolo di informazione, perché appunto disperdendosi nelle città vicine porteranno solidarietà al movimento degli scioperi. E così come in Italia, dopo un primo momento sorpresa da parte delle autorità che si vedono partire questi treni pieni di bambini, questi cortei di bambini che vanno verso il treno con la fanfara, la banda, eccetera eccetera, e che vengono accolti nelle varie città dove arrivano, anche lì con la fanfara, le bande, eccetera eccetera, dopo la prima partenza, le partenze successive vedranno la repressione, perché così come in Italia ci saranno cariche con morti, mamme e bambini caricati dalla polizia, dall'esercito, eccetera. Durante lo sciopero di Lawrence i due principali agitatori, Ettor per l'IVV e Giovannitti, per direttore del proletario in quel momento, per la Federazione Socialista Italiana, vengono arrestati con l'accusa di omicidio. Una cosa, potrei dire, una chiara provocazione: scontro polizia manifestanti, muore una manifestante italiana, vengono accusati i due principali agitatori di essere colpevoli di questo omicidio. sarà una cosa che avrà ripercussioni in tutto il mondo. In Italia appunto scioperi a Genova, lotta operaia ne parla, ma scioperi in quasi tutte le città italiane, manifestazione per la liberazione di Ettore Giovannitti, che da marzo, dai primi mesi dell'anno, quando vengono arrestati, verranno assolti completamente solo a novembre. Nel frattempo, altra figura importante del movimento sindacale, nel Proletario, entra prima in redazione e poi nella direzione Edmondo Rossoni, già sindacalista a Palma, del Giro di De Ambris, che viene chiamato in America come conferenziere, come appunto agitatore da parte della Federazione Socialista Italiana, e appunto inizierà praticamente l'avventura di Rossoni in America con una leggera, diciamo con un rientro di qualche mese in Italia nel 13, praticamente andrà avanti fino alla metà del 15. Rossoni, così come in Italia il movimento sindacalista si spacca sul problema della guerra, così la Federazione Socialista e il Proletario si spaccano sulla Prima Guerra Mondiale. Proletario che invece si era mantenuto diciamo compatto per condannare l'avventura italiana in Libia. Tra le tanti collaboratori del Proletario in Italia, si è citato Angelo Faggi, di cui poi tardi continuerò a parlare, c'è anche Ezio Bartalini, che a Genova dirige La Pace, settimanale antimilitarista, settimana antimilitarista che durerà più o meno dal 1915 fino al 1914, e sarà uno dei collaboratori del Proletario, e quindi manderà articoli antimilitaristi negli Stati Uniti. Edmondo Rossoni appunto diventa direttore del Proletario, inizia a collaborare col Proletario nel 13, durante l'arresto di Giovannitti diventa uno dei redattori principali, diventerà direttore nel 14, rientra, andrà via dagli Stati Uniti all'inizio del 13, causa problemi dovuti a qualche comizio incendiario tenuto per festeggiare la liberazione di Ettore Giovannitti, viene in Italia, dove avrà dei problemi a seguito degli scioperi, dei grandi scioperi metallurgici del 13, e quindi decide di tornare in America. Rossoni cercherà di portare il Proletario e il movimento sindacalista di lingua italiana in America verso l'interventismo, tentativo che fallisce. All'interno del Proletario si scontrano le due grosse correnti, così come in Italia, la corrente antimilitarista e la corrente interventista. La decisione del Proletario è quella di, virgolette, licenziare sia l'amministratore antimilitarista che il direttore interventista. Il giornale viene preso da altri due operai antimilitaristi, ma comunque l'avventura di Rossoni termina. Rossoni, Edmondo Rossoni, per chi non lo sapesse, rientra in Italia, oltre ad essere uno dei principali, insieme a De Ambris, uno dei principali componenti del movimento sindacalista interventista, avrà poi una deriva verso il fascismo, diventerà ministro delle corporazioni e tutta una bella carriera all'interno del partito fascista. Un altro personaggio appunto, veniva citato prima, Angelo Faggi, Faggi toscano, emigrato a Genova all'inizio, intorno nel 1905-1906, collaborerà molto con la Camera del Lavoro sindacalista di Sestri Ponente, e, come dice, lotta operaia Sestri Ponente dei paesi limitrofi, laddove bisogna ricordare che il genovesato, per chi non ha nozioni di geografia dell'epoca, il genovesato praticamente comprendeva tutta la Liguria, esclusa la provincia di Imperia. Non esisteva ancora la provincia di Spezia e la provincia di Savona, che nasceranno nel 26-27 con la grande riorganizzazione fascista dell'amministrazione locale, e quindi diciamo che praticamente la Camera del Lavoro di Sestri Ponente influenzava, oltre al ponente cittadino, quello più industrializzato, praticamente aveva un bacino di pubblico che andava da Salzana fino a Albenga. Dicevo, Angelo Faggi sarà appunto nel 1905-1906 viene a Genova, collabora con la Camera del Lavoro, si trasferisce a Palma, si trasferisce a Piacenza, va negli Stati Uniti e negli Stati Uniti durante il periodo della Prima Guerra Mondiale sarà uno dei colpiti dalla repressione, appunto si parlava prima, le leggi di guerra degli Stati Uniti, mentre in guerra nel 17 tenderanno a colpire gli IVV, così come in Italia le leggi di guerra, la proclamazione dello stato di guerra colpirà il movimento sindacalista, tutto il movimento operaio non allineato nei confronti della guerra, chiuderanno tanti giornali, chiude Lotta Operaia, chiude il Libertario a Spezia, si salva Guerra di Classe, che era il settimanale dell'Unione Sindacale, perché trasferisce la redazione a Firenze e Firenze non rientra nelle zone diciamo sotto la giurisdizione militare, e quindi pur con molte difficoltà si salva, anche se buona parte dell'USI viene spedita in giro per l'Italia al confino, Binazzi a Lipari, Binazzi e la moglie a Lipari, Librando Giovannetti finisce vicino a Catanzaro, Armando Borghi prima finisce l'Impruneta vicino a Firenze, poi anche lui prende la strada del sud. Dicevo, Angelo Faggi viene arrestato, il proletario viene chiuso per motivi diciamo di repressione amministrativa, ovvero sia gli viene tolto la concessione di poterlo spedire, diciamo il diritto alla spedizione postale. C'è un tentativo di Faggi di creare un nuovo giornale che è La Difesa, ma anche non gli viene concesso la tariffazione postale, quindi viene distribuito solo con la vendita militante attraverso vari fiduciari di zona che si incaricano di riportarlo. Faggi nel 19 riesce a rimettere in piedi il nuovo proletario, nel 18, finito la guerra, mette in piedi il nuovo proletario, e nel 19 riesce a riprendere la vecchia testata, Il Proletario. Quando nel 19 c'è un'altra grossa ondata di repressione, circa 150 dirigenti dell'IVV vengono arrestati, Faggi viene preso e rispedito in Italia, imbarcato su una nave e rispedito in Italia, torna a Genova alla Camera del Lavoro, sarà segretario alla Camera di Sestri nel 21 durante l'assalto fascista, sarà quello che firmerà il patto di pacificazione con i fascisti, andrà poi a Piacenza, perché a Genova non poteva più stare, a Piacenza segretario della Camera del Lavoro, darà vita all'esperienza degli arditi del popolo a Piacenza, nel 21 verrà eletto in Parlamento come esponente comunista e poi emigrerà dopo l'avvento del fascismo. Un altro personaggio per noi molto importante che ha scritto, che secondo alcuni storici del proletario ha scritto fin dal 1910 su sindacalismo, unionismo sindacale eccetera eccetera, è Librando Giovannetti. Librando Giovannetti è stato più o meno dalla spaccatura dell'USI, quindi nel 1915, fino all'avvento del fascismo e anche dopo, una delle principali figure dell'Unione Sindacale. Librando Giovannetti è stato al momento della spaccatura dell'USI, appunto, da una parte l'ala interventista, Parma per capirci, quindi De Ambris, Corridoni, Rossoni, dall'altra gli anarchici, era una delle figure più anziane all'interno dell'Unione Sindacale, in quanto era già sulla quarantina, aveva già una quarantina d'anni. Giovannetti è stato segretario dell'USI, segretario dei metalmeccanici, dei metallurgici, come si diceva all'epoca, dell'Unione Sindacale, a partire dall'immediato dopoguerra, era di Terni, ma a lavorare, a partire dal 10 le sue tracce sono in Liguria, tra Cornigliano, Savona, Sestri Ponente, ed è stato dal 16 segretario della Camera del Lavoro di Sestri, dopo il richiamo al fronte di Antonio Negro. Dicevo, Giovannetti è importante, o almeno per noi è importante, perché ha lasciato proprio sul proletario una storia del movimento sindacalista italiano. Giovannetti ha pubblicato su 38 puntate, più o meno dalla fine del 25 fino all'inizio del 27, 38 puntate della storia del movimento sindacalista in Italia, partendo più o meno dal 1903 ed arrivando al 25. Puntate che noi abbiamo recuperato, o meglio, puntate che all'inizio degli anni 80 sono iniziate a circolare in Italia sotto forma di dattilo scritto, che noi come redazione di collegamenti abbiamo recuperato un paio d'anni fa e abbiamo pubblicato in spot di... abbiamo pubblicato in questo libro che è uscito l'anno scorso, Il Movimento, il sindacalismo rivoluzionario in Italia, che appunto riprende le 38 puntate appunto pubblicate per la prima volta nella sua interezza in Italia, e Giovannetti appunto pubblica questa storia degli avvenimenti in Italia più o meno dal 1903 al 1925, tutti incentrati su quello che avveniva in fabbrica e sugli scontri di fabbrica. Non si trova quindi tutta quella che è stata l'agitazione durante la prima guerra e post prima guerra, per esempio i moti per il caro viveri, perché diciamo avvenivano fuori dalla fabbrica, anche se poi gli operai erano coinvolti. Però tutto ciò che è scontri, agitazioni, l'occupazione delle fabbriche nelle zone diciamo controllate dall'Unione Sindacale, quindi c'è molta Liguria, molta Toscana, un po' di Lombardia, eccetera eccetera, Giovannetti le riporta, e per averci lavorato dà l'impressione anche di riportarli non solo con la memoria ma avendo documenti in mano. Questo è uno dei tanti drammi, potrei dire simile all'IVV. Una delle cose dell'IVV è la perdita della memoria. Da un lato la repressione, cioè gli incendi delle camere del lavoro in Italia e delle sedi dell'IVV in America, la distruzione di tutto il materiale ha fatto sì che di queste cose, si può dire, non ne sappiamo quasi più. Detto per inciso, Giovannetti è sparito completamente da quella che è la storia del movimento operaio italiano. Una delle fonti principali della storia del movimento operaio italiano ufficiale è il dizionario del movimento operaio, il dizionario biografico del movimento operaio. Giovannetti non c'è, o meglio, c'è solo in tre note, una di Antonio Negro per dire quando Negro nel 16 viene rispedito al fronte, il suo posto viene preso dal grande Giovannetti, e non sappiamo che è costui. C'è una nota lo stesso sulla scheda di Michele Bianchi, sindacalista, interventista, quadrunviro, che però è nella storia del movimento operaio, per dire che Michelino Bianchi e Giovannetti, assieme a Pietro Masotti, hanno dato vita all'Unione Sindacale Ferrara. E poi c'è un'altra nota simile. Giovannetti, dicevo, ha pubblicato questa cosa, a puntate, così come ha pubblicato tutta una serie di articoli che appunto vanno dal movimento sindacale fino poi nel 20, diciamo dall'avvento del fascismo in poi, sulla situazione dell'Italia, la repressione, diciamo le varie cose, le potrei dire scene di vita quotidiana in Italia, per farli conoscere negli Stati Uniti. Così come Il Proletario sarà uno dei fogli attraverso il quale scriverà anche Armando Borghi, segretario anche lui dell'Unione Sindacale Italiana, che esce dall'Italia alla fine del 22 per andare a Berlino assieme a Giovannetti e Virginia D'Andrea, a Berlino all'assemblea istitutrice dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, l'internazionale che non fa riferimento a Mosca. Giovannetti poi rientra in Italia, Virginia D'Andrea e Armando Borghi invece prenderanno la strada dell'emigrazione e poi andranno negli Stati Uniti. Il Proletario è sicuramente una fonte utile per seguire dal 20 al 27 tutta la vicenda Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti, anarchici, anche loro nel 17, come tanti italiani, hanno scelto la via dell'immigrazione nel momento in cui gli Stati Uniti entrano in guerra per paura di essere presi e rispediti in Italia al fronte, scelgono la strada del Messico, a fine guerra rientrano, verranno vicenda a tutti nota, quindi ve la risparmio, però sul proletario si trovano tutte le indicazioni, gli appelli del comitato di difesa, dove vedremo dei leader del quale è Arturo Giovannitti, che abbiamo già visto all'interno dell'FSI e all'interno dell'IVV. Termino questa breve cosa dicendo che appunto il proletario continua fino, dunque la Federazione Socialista Italiana alla sindacalista, diciamo, si scioglie nel 21 quando confluisce direttamente nell'IVV, il proletario a questo punto diventa l'Italian Weekly of Industrial Workers of the World, cioè il settimanale ufficiale in lingua italiana dell'IVV, e tira avanti fino al 46, quando la crisi economica, che potrei dire l'ha attanagliato per tutta la vita, lo porta alla scomparsa definitiva. Dico ancora due parole e poi la smetto. Ancora due cose sulla fortuna del proletario in Italia, potrei dire. È un periodico quasi sconosciuto, ne esistono alcune copie alla Nazionale di Firenze, peraltro in condizioni molto danneggiate, nel senso che ormai la carta si sbriciola a solo contatto. Ne esistono poi qualche copia qua e là sparsa per qualche centro di documentazione, al Gobetti di Torino, piuttosto c'è una copia alle collezioni civiche milanesi, qualche copia al Gramsci di Roma o all'Istituto di Storia Moderna o alla Biblioteca Nazionale di Storia Moderna e Contemporanea. Una grossa collezione del proletario ad Amsterdam, all'Istituto Internazionale di Storia Sociale. Sembra che l'unica collezione intera, o comunque una delle principali collezioni, sia all'Università del Minnesota, al fondo De Champis, dell'Istituto di Ricerca sull'Emigrazione dell'Università del Minnesota, e ovviamente altre collezioni sempre incomplete in varie biblioteche americane. In Italia sicuramente si leggeva il proletario, si leggeva perché si vede all'interno dei vari numeri c'è un dibattito tra lettori italiani e lettori italiani e lettori americani su vicende piuttosto che su altre cose. Sicuramente abbiamo delle tracce del proletario negli archivi di Stato, nei fondi prefettura, quando veniva sequestrato. C'è uno dei numeri del proletario abbinato a un fascicoletto scritto da Giovannetti e pubblicato dall'IVV, viene sequestrato alle poste centrali di Savona, inviato dall'America a una bambina di 7 anni, nipote di Giovannetti, diciamo come tentativo di evitare la censura, ma la censura ovviamente è ben più sveglia di queste cose. Quindi abbiamo traccia in archivio di Stato di questo sequestro di questo. Io direi basta, mi era solo, diciamo, uno stimolo sulla componente italiana all'interno dei IVV, anche perché ormai abbiamo già perso un altro relatore, sono già le 11. Io penso che a questo punto possiamo aprire il dibattito, nel senso che credo che ci saranno domande, o comunque immagino che il dibattito potrebbe anche cominciare a toccare problemi un po' più di attualità. Allora, cerco di stimolarlo un attimo, 5 minuti. Una delle questioni che abbiamo discusso durante la preparazione di questa iniziativa era se fosse possibile in qualche modo attualizzare l'esperienza del sindacalismo rivoluzionario. E quando parlo di sindacalismo rivoluzionario evidentemente non mi riferisco solo all'IVV, ma alle varie esperienze che si sono sviluppate in Europa, in Italia, in Francia, in Spagna, negli anni pressappoco dal primo Novecento fino alla Spagna, che è del 36, no? Mi sembra che dal nostro dibattito, io ve lo ripropongo tale quale, così magari può essere un elemento di discussione, ci fossero essenzialmente due posizioni. Una che riteneva che le esperienze anche attuali, mi rifaccio evidentemente al discorso del sindacalismo di base nelle sue varie componenti per quanto riguarda la realtà che conosciamo meglio, potesse rappresentare una sorta di attualizzazione di quelle esperienze e che quindi valesse la pena di ripartire da una serie di esperienze di lotta del movimento operaio europeo americano centrate sulla sulla centralità del sindacato come soggetto sia sindacale che politico rivoluzionario, e chi ritiene, come ad esempio ero io e sono io, che queste esperienze non possano più essere attualizzate, perché quello che oggi si presenta, io so che qui susciterò magari delle polemiche, però è un momento di discussione, quello che oggi rappresenta il sindacalismo di base nelle sue varie eccezioni, nella situazione attuale, è un contesto, è una situazione, una progettualità completamente diversa da quelle delle esperienze storiche del sindacalismo rivoluzionario. Vi spiego in due parole, io espongo la mia tesi perché quella degli altri la esporranno gli altri. La mia sensazione è che il contesto è talmente diverso perché allora il sindacato rivoluzionario è un sindacato in industria, però l'industria c'è la fabbrica, c'è la grande concentrazione operaia, all'interno della fabbrica c'è un ciclo produttivo che è praticamente completo, c'è la possibilità di pensare che padroneggiando